edizione. Sono le 6, 15 minuti e 58 secondi. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Benvenuti a questa seconda parte di Prima Edizione. Veniamo alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola e poi un'occhiata anche a quel che scrive la stampa estera. Iniziamo dal Corriere della Sera, iniziamo dall'Italia, iniziamo dal Corriere della Sera, che decide per un'apertura particolare, perché il titolo che troviamo in alto è accompagnato da una foto che riguarda la protesta di Wall Street, una gigantesca retata contro gli indignati sul ponte di Brooklyn. Questo è il titolo. Circa 700 persone sono state arrestate sabato sera a New York. Ne parleremo tra un attimo, vi daremo anche un aggiornamento in diretta, perché poi gran parte di queste persone sono state rilasciate. Centropagina, il titolo forte riguarda il referendum, piano per evitare il referendum, il PDL vuole introdurre le preferenze nel sistema elettorale. E poi ancora un titolo che riguarda la Grecia, naturalmente. Atene licenzia 30.000 statali, ma il rischio del default resta. Il monito di Londra, la crisi dell'euro minaccia il mondo. Significativo il titolo, anche solo il titolo, dell'editoriale del professor Giovanni Sartori, la nave sbanda, chi c'è al timone. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera. La Repubblica sceglie un'apertura tutta italiana e tutta politica. Scontro sul voto anticipato, questo è il titolo. Calderoli gela Maroni. Casini dice alle urne, Berlusconi pensa ad un nuovo partito. La tentazione di Silvio, una lista per l'antipolitica, è il retroscena firma di Claudio Tito. A centropagina la foto del figlio di Riina, ve ne abbiamo parlato poco fa nel giornale radio, il titolo è Riina Junior torna a Corleone, il sindaco non lo vogliamo. E a centropagina vera e propria il titolo sulla Grecia, Grecia shock, via 30.000 statali e poi ribelli a New York, 700 arresti, viene messo tutto nello stesso titolo relativo alla crisi. Si ricorda anche che oggi è il giorno della sentenza per la vicenda di Meredith Kercher, il giorno della sentenza, questo è il titolo. Naturalmente sia il Corriere che la Repubblica dedicano i titoli di taglio basso al calcio, anche di questo torneremo a parlare più avanti. Dal Sole 24 Ore di oggi, che è il Sole 24 Ore del lunedì, come sapete, un numero per così dire freddo, però ci sono notizie molto interessanti, a partire dal pezzo firmato da Andrea Maria Candidi in prima pagina per i ricorsi sulle multe. Solo 30 giorni di tempo. Sono stati dimezzati i termini, ma l'apertura è sul fisco, 500.000 escono dai minimi. Che cosa vuol dire? Il 95% dei contribuenti attualmente in regime agevolato dovrà dire addio al prelievo leggero. Ci saranno benefici solo per startup e under 35, platea potenziale di 200.000 soggetti l'anno. La stampa apre sulla legge elettorale, anche qua la legge elettorale divide, cresce il partito dell'urna e una foto a centropagina grande dedicata alla Juventus, una super Juve schianta il Milan. C'è spazio ovviamente anche per la Grecia, per i cosiddetti indignati di Wall Street e anche il fatto che la crisi economica comporta un terzo in meno di bimbi adottati. Vi segnaliamo da qua anche un'intervista a Jeremy Rifkin che dice tutto il mondo va ripensato. L'apertura del Messaggero è sulla Grecia, la crisi si aggrava, 30.000 statali licenziati, Cameron minaccia mondiale dall'euro, naturalmente spazio anche alla politica. A centropagina la vicenda Meredith, la rabbia dei familiari di Metz allibiti dalle voci di assoluzione. Questo per quanto riguarda il Messaggero e l'editoriale dedicato proprio al processo di Perugia, la giustizia smarrita sotto i riflettori. Come era prevedibile, il Messaggero, che è il quotidiano di Roma, essenzialmente il titolo di calcio lo dedica alla Lazio, perché la Roma ha giocato sabato. Lazio colpo grosso con Klose, lo ribadiamo, poi di calcio torneremo a parlare più avanti. un'occhiata ai quotidiani internazionali. Iniziamo dal New York Times, anche qua c'è molta attenzione all'economia in questo periodo. Apre sul tema, ritorna su un tema che aveva già affrontato nelle settimane scorse, ossia i cosiddetti tax breaks, ossia le deduzioni e detrazioni che sono andate crescendo moltissimo negli ultimi anni e hanno necessità di un taglio, perché, o almeno molti politici ne parlano, hanno la necessità di un taglio perché pesano sul bilancio federale in maniera potente. Spazio naturalmente anche alla Grecia e alle proteste di Wall Street. Non male il fatto che il New York Times decide di affidare il tutto alla penna di Nicholas Kristof, che è il suo editorialista economico, il quale dice: beh, insomma, siete molto distruttivi, io una proposta ancora non l'ho sentita, posto che io non sono antimercato come voi, vi suggerisco alcune cose, tra cui per esempio il sostegno alla Tobin Tax, sulla quale Obama è sempre stato molto freddo. Il Financial Times apre sulla Grecia, ma grande evidenza alla spinta che il commissario europeo Neelie Kroes vuole dare alla banda larga, tra cui c'è la richiesta di grandi investimenti. Interessante l'inchiesta del Wall Street Journal. Naturalmente l'apertura è dedicata alla Grecia ed è quasi scontato, naturalmente, essendo il giornale di Wall Street. È interessante il tema dei cosiddetti bullet trains cinesi, treni proiettile. Lo sapete che qualche settimana fa c'è stato un gravissimo incidente in Cina, proprio a causa di uno scontro tra due di questi treni dopo il gravissimo incidente del mese scorso. Ebbene, che cosa scrive il Wall Street Journal? Che a quanto risulta al quotidiano di Wall Street, il problema è che i cinesi importano i pezzi di questi treni dall'estero e spesso i tecnici cinesi non sono in grado di gestire questa componentistica e ovviamente i problemi per la sicurezza si moltiplicano. Ancora vi segnaliamo, dobbiamo dire la verità, abbiamo trovato sia sui giornali, sia sui quotidiani britannici che sui quotidiani americani, a differenza di quanto non ci aspettassimo, un po' più, abbiamo trovato poco spazio dedicato alla vicenda del processo per l'omicidio di Meredith Kercher e quindi alla vicenda di Amanda Knox, che molto in realtà sta appassionando gli Stati Uniti. Comunque andiamo alla Francia con Le Monde, dal quale segnaliamo una notizia che da poche altre parti abbiamo trovato, ossia si parla di una situazione umanitaria disperata a Sirte e siamo alla Libia, quindi grande attenzione alla Libia. E poi dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna, ancora in tema di crisi economica, si segnala da più quotidiani l'indiscrezione secondo la quale il cancelliere dello scacchiere Osborne, nella giornata di oggi, dovrebbe in sostanza annunciare un taglio delle tasse. Insomma, a quanto pare i britannici sono riusciti a recuperare qualche quattrino dal bilancio e questi quattrini dal bilancio li vogliono usare per congelare le imposte locali. Questo è quanto dai quotidiani italiani e da quelli esteri e noi veniamo al primo approfondimento di giornata. Laura Bettini, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, parliamo delle proteste a Wall Street, 700 arresti e poi è finito in una bolla di sapone, se così possiamo dire, nel senso l'hanno rilasciati quasi tutti, no? L'hanno rilasciati quasi tutti, però loro promettono comunque che questi arresti non li intimidiranno. Simone, se sei d'accordo, facciamo sentire agli ascoltatori come vanno le cose per le strade di New York. Manifestanti che nonostante tutto continuano a inneggiare all day, all week, occupy Wall Street, occupare Wall Street tutto il giorno, tutta la settimana, quindi gli arresti non li fermeranno. Questo è uno degli slogan che scandiscono adesso, come prima, i manifestanti che da almeno due settimane sono accampati nel distretto finanziario della città di New York. Sono allo Zuccotti Park, che pare tra l'altro essere diventato una meta turistica a questo punto. Protestano contro lo strapotere, dicono, della finanza e delle corporation. Station, ma ci sono anche altre motivazioni che tra poco affronteremo. Sono migliaia, hanno allestito un accampamento variopinto e tecnologico, cioè c'è un'area attrezzata con computer e apparecchiature di comunicazione. Del resto siamo negli Stati Uniti e quindi se internet ha avuto una gran parte di merito della protesta, della diffusione della protesta in Nord Africa, figuriamoci appunto se non entra in gioco a Wall Street. Ieri 700 di questi manifestanti, come dicevamo già, sono stati arrestati perché hanno invaso il ponte di Brooklyn. Infatti per loro l'accusa è di turbamento dell'ordine pubblico, hanno bloccato il traffico, ma ci sono versioni discordanti sull'accaduto o comunque su perché questo blocco sia avvenuto. La polizia dice che l'hanno invaso le carreggiate senza avere alcuna autorizzazione, i manifestanti invece dicono no, ci avevano autorizzato ad attraversare il ponte e invece è stata una trappola, quando siamo stati lì ci hanno arrestati. Laura, ma cosa vogliono? Cosa vogliono? Le proteste partono, come abbiamo detto, dalle proteste contro il mondo della finanza, contro le corporation, però vi facciamo sentire giusto un assaggio, chiedo alla regia di far partire il secondo file. I'll be here as long as I have to be, if I end up finding a job. Lavoro, avete sentito, job, lui cerca lavoro. Molti di questi manifestanti sono arrivati lì non tanto per le corporation quanto perché sono disoccupati, e questo è uno dei motivi principali. Poi ci sono altri propositi, sono ben espliciti nei loro cartelli, nei loro slogan, c'è la lotta alla corruzione, la lotta per mantenere certe garanzie sociali e poi anche alcuni dei temi più classici, ovvero la pace e la lotta contro l'energia atomica. Grazie Laura Bettini, sappiamo, ne siamo quasi certi che sentiremo ancora parlare di questi gruppi di contestatori nei prossimi giorni. Si sono poi tra l'altro diffuse queste proteste in altre città americane, Los Angeles, Boston, e quindi avremo sicuramente di che parlare. Prima edizione. 6:33 minuti e 20 secondi, è il momento d'Italia incontro luce, parliamo di politica e di centrosinistra. Italia in controluce. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Nel centrosinistra si discute di primarie in vista di possibili elezioni. Quale leader scegliere? Che cosa ne pensa la base? Barbara D'Amico ha sentito alcuni militanti del centrosinistra. Io penso che Michi Vendola sia un grande comunicatore e un buon amministratore. Il punto vero è che stiamo parlando di scegliere colui che dovrà fare il presidente del Consiglio, che deve conoscere bene l'Italia e non solo. Queste caratteristiche ce l'ha solamente Bersani, quindi non ha, secondo me, da temere una scalata di Vendola. Michi Vendola può portare a votare alcuni che magari negli ultimi anni si erano assentati alle urne. Dopodiché non penso che Bersani abbia avversari. Tra Bersani e Antonio Di Pietro penso che Bersani ha più numeri, anche perché è più concreto. Non è uno che segua l'umore del momento, perché molti di questi leader sono un po' così a istinto, seguono un po' quello che dice la pancia dell'elettore più che la testa, perché la testa è una cosa un po' noiosa da seguire, no? Noi ovviamente proporremo come sel il nostro leader, che è Vendola, ha un carisma notevole, forse dovrebbe dare più concretezza alle sue suggestioni. Ma Di Pietro, se ci dovesse essere le primarie, lui correrà. Beh, è ovvio che i numeri a Bersani gli danno ragione, ma non per questo Di Pietro, non può concorrere, sicuramente farà la sua bella figura, ecco. Un leader deve essere carismatico e lui lo è. Fra i tre, quindi poi si vedrà. Di Pietro ha già detto che sosterrà chi prenderà il maggior numero di voti. Bersani è stato un grande segretario ed è un grande segretario. I cittadini apprezzano il fatto che ci sia un segretario di partito che faccia il suo mestiere e che quando parla anche in televisione o nelle occasioni pubbliche non parli per slogan, ma riempia sempre i propri discorsi di contenuti che sono veri e propositivi per il Paese. Se noi volessimo un leader alla Berlusconi, probabilmente non saremmo il PD e non saremmo di centrosinistra. Penso che come Partito Democratico si debba tentare di allargare in ogni caso il perimetro della coalizione per dare una credibilità maggiore e un'offerta maggiore all'elettorato, in maniera tale da poterci presentare con le carte in regola per la proposta di governo. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento con Italia in controluce è sempre per oggi alle 13:30. 36 minuti e 30 secondi, dunque di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Passiamo a parlare di Grecia. Dimitri Deliolanes, buongiorno. Buongiorno a voi. Corrispondente a Roma della TV pubblica greca, autore del libro Come la Grecia, editore Fandango, ricostruzione puntuale di quello che è successo in quel paese, di come si è arrivati a questo punto. Che a questo punto, Dimitri, insomma, inizia a essere veramente preoccupante. Viene richiesto un piano d'austerity dietro l'altro, adesso il taglio di 30.000 dipendenti pubblici e anche con una discreta brutalità. Che cosa ti attendi per le prossime settimane? Perché già la protesta era esplosa con una certa violenza. Sì, no, ma la protesta oramai fa parte del paesaggio da quasi 2 anni, insomma, non penso che le reazioni possano in qualche maniera far cambiare la marcia del governo, anzi, secondo fonti della stampa greca, probabilmente la richiesta dei nostri creditori della Troica è di aumentare questo numero, quindi arrivare a 60, forse 100.000. Però bisogna precisare, non sono statali in senso stretto, sono lavoratori che lavoravano nelle aziende a partecipazione statale, che sono tutte quante in via di privatizzazione, qualcheduna chiuderà perché non serviva a nulla se non a tenere questi lavoratori, a fargli prendere lo stipendio, perché chi lavora nell'amministrazione pubblica non è licenziabile in base alla Costituzione greca. Dimitri, c'è anche la sensazione, magari da parti governative, che si stia iniziando a chiedere troppo. Quello che intendo è questo, è che sarà la manovra di austerity da parte del governo greco, numero non sappiamo nemmeno quanto, nemmeno quanto, abbiamo perso il conto. Eppure ieri stesso gli obiettivi di bilancio pubblico è stato detto nitidamente che non sono raggiungibili, quindi non so, l'idea forse anche all'interno dell'esecutivo che non sia questa la strada giusta, si sta facendo strada, scusate la cacofonia. Beh, ma veramente il governo lo sta dicendo da parecchio tempo che molte delle misure sono controproducenti o inefficaci. La verità vera è che non decide il governo, decide la Troica. Abbiamo visto nell'ultimo mese tutto il dibattito sul fatto che la Grecia era già in default, che sarebbe stata in default, che sarebbe tornata la dracma, sarebbe espulsa dall'euro, perché c'è stata una... chiamiamola uno scambio di opinioni piuttosto vivace tra il governo e gli ispettori della Troica per appunto su queste misure. Il governo greco decide poco e le misure sono dettate da questi ispettori che effettivamente la politica, insomma, che è stata applicata negli ultimi 2 anni non è che si è dimostrata un granché, ecco, questa è la verità. È vero che sono stati ritardi da parte del governo, contraddizioni, resistenze, no, a fare quello che doveva fare, cioè riforme che avrebbero dovuto essere fatte già negli anni 90 e che adesso bisogna fare in fretta e furia in uno spazio di tempo molto ristretto. Però è vero anche che la ricetta del Fondo Monetario e dell'Europa, insomma, non è che dia... che sia così brillante poi alla fine. Le prospettive che vedi, Dimitri, è quella che alla fine si vada verso il famoso haircut, come viene chiamato, ossia il taglio dei rendimenti, il taglio dei titoli di Stato, insomma, per i debitori della Grecia. In che misura? Si è parlato addirittura di un 50%. Che idea circola in questo periodo? Sì, in verità un certo taglio di capelli è già previsto con l'accordo del 21 luglio, che era molto favorevole alla Grecia perché prolungava la scadenza dei debiti, appunto c'era un taglio sugli interessi che favoriva il paese. Sì, è probabile che si arrivi a un taglio ulteriore per favorire, però il problema vero è invertire questa tendenza che fa crollare il PIL. Quest'anno chiuderà col meno 5,5%. Quello che secondo me non hanno capito i nostri creditori era che sì, bisognava destatalizzare assolutamente all'economia greca, visto che lo Stato era il primo datore di lavoro e il primo cliente del settore privato, ed era una situazione assolutamente insostenibile a lungo andare, però bisognava farlo in maniera che fosse dato spazio al settore privato, e questo non è stato fatto, per questo è tutta l'economia che sta crollando. Quindi sì, rispondo alla domanda, sì, è probabile che si arrivi a misure ancora più drastiche per evitare il default, perché secondo me, lo sto dicendo da parecchio tempo, il default sarebbe veramente scatenerebbe uno tsunami capace di travolgere sia l'area dell'euro sia l'Unione Europea. E grazie dunque a Dimitri Deliolanes, che è corrispondente a Roma della TV pubblica greca. Vi segnaliamo il suo puntuale e bel libro Come la Grecia, editore Fandango, dal quale insomma forse si trae anche qualche parallelo, come dire, tra il nostro paese e la Grecia. Grazie Dimitri e buona giornata. Grazie a voi. E noi cambiamo decisamente argomento, andiamo un po' più sul leggero, anche se non per tutti. Parliamo di calcio, col ritorno dopo qualche tempo in grande stile della Juventus ai vertici della classifica, e siamo in collegamento con Dario Ricci. Dario, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Beh, è un campionato che finora si colora di bianconero, il bianconero dell'Udinese, che riesce ogni anno a trovare nuovi talenti dopo aver venduto i suoi pezzi pregiati. Beh, due nomi su tutti, ad esempio Sanchez al Barcellona e Inler, che sta facendo le fortune del Napoli quest'anno, ma è soprattutto il bianconero della Juventus, che col successo di ieri sera contro il Milan, campione d'Italia, è ufficialmente tornata al vertice del calcio italiano. Prima edizione. Le 6:46 minuti, ancora in collegamento con Dario Ricci. Allora Dario, cerchiamo di capire perché la Juve stia girando così bene. Beh, le ragioni del successo della Juventus di Conte sono molteplici. Direi innanzitutto il lavoro dell'allenatore, che sta lavorando molto sulla mentalità, partendo dalla ritrovata umiltà nella consapevolezza della tradizione bianconera. Il nuovo stadio, che oltre agli effetti pratici di un tifo calorosissimo e sempre più vicino al campo senza barriere, ha anche dato un impulso verso il futuro, no? Per la vecchia signora, che ha visto finalmente concretizzarsi anche gli sforzi economici di tanti anni di impegni economici proprio per la realizzazione degli stadio. E poi ci sono soprattutto gli uomini protagonisti, dall'ottimo Vidal, finora appunto protagonista di questo primo scorcio di stagione, a Pirlo, che è vero e proprio signore del centrocampo, a Vucinic, che ha portato talento e imprevedibilità alla manovra offensiva, a un Marchisio che finalmente sembra aver trovato la giusta collocazione in campo in questo ruolo di mezzala goleador, che era anche un ruolo scoperto nella Juventus. Allora Dario, altri elementi importanti di questa prima fase di campionato che identifichi? Beh, l'altro dato importante di questo campionato è innanzitutto la depressione delle milanesi, con la doppia sconfitta del Milan appunto nel big match con la Juventus, e non si è certo visto un bel Milan già sulle gambe, molto stanco, dominato per 90 minuti, con un Ibrahimovic ancora una volta opaco, a dir poco opaco, in un big match, in una sfida importante. Il migliore mi è sembrato Cassano, finché il fiato lo ha retto. Nell'Inter abbiamo visto il KO clamoroso, con tanto di polemiche arbitrali, ma comunque clamoroso, nel big match di San Siro di sabato sera contro il Napoli. Quindi è sicuramente un autunno difficile per il calcio sotto la Madonnina. Ma poi l'altro dato nuovo è l'arrivo al vertice del Sud, con Napoli, Cagliari e Palermo a quota 10 punti che si dividono la terza piazza di fatto alle spalle di Juventus e Udinese, che rappresentano una bella novità per il Sud, che torna ai vertici del calcio italiano. E poi a quota 8, insieme al sempre sorprendente Chievo, o, ma ormai sarà bene non definirlo più una sorpresa, arrivano Roma e Lazio che per la prima volta vincono insieme ed è soprattutto la vittoria dei due allenatori forse più discussi di inizio anno. A parte chiaramente il caso Gasperini, cioè quel Luis Enrique e quel Reja che stanno riconquistando a suon dei risultati la fiducia delle rispettive piazze. Grazie, grazie dunque anche al nostro Dario Ricci e veniamo alle anticipazioni della rassegna stampa. Alessandro Milan, buongiorno. Buongiorno a te Simone. Che cosa abbiamo in ballo oggi? Ma guarda, c'è molta politica, a me annoia un po' francamente questa questione della legge elettorale, ma sono l'unico in Italia, no? Evidentemente. Però ci sono delle storie, per esempio la vicenda di Salvatore Riina Junior, no? Che è comparso a Corleone, un po' a sorpresa, non lo desiderano neanche lì, non lo desidera nessuno praticamente. Quindi. E lui tra l'altro, intercettato dal Corriere della Sera, dice: cosa devo fare? Non mi vogliono al nord, non mi vogliono al sud, ho scontato la mia pena, da qualche parte dovrò andare a vivere, no? Oppure no. Poi c'è una storia interessante di politica che viene messa in risalto dalla Repubblica. La maggioranza in questa legislatura è stata salvata per 5.098 volte dalle assenze dell'opposizione in Parlamento per far approvare alcune sue cose. È una ricerca di Open Polis, sai, sì. Quelli che, sì. Che monitorano tutti. Tra l'altro, a proposito di politica, ho visto che si parla di un nuovo partito di Silvio Berlusconi. Ah, sì, questo. È vero. Su Repubblica, anticipazioni. Secondo Claudio Tito, che è una persona molto bene informata riguardo a quello che succede attorno al Premier, Berlusconi starebbe pensando a un nuovo partito legato all'antipolitica. Cioè cavalcando questa idea della lotta alla casta, insomma. Altre cose, altre storie? Altre storie, insomma, vuoi veramente tante, tante cose, no? C'è nelle Marche una storia drammatica di un bimbo, di un ragazzino per la verità di 11 anni che è stato tolto alla famiglia perché è considerato dai vigili urbani e dai servizi sociali in stato di abbandono, ma c'è la madre che sta protestando in tutti i modi dicendo: non è assolutamente abbandonato, è vero, io vado a lavorare, lo lascio a mio cugino che ha 40 anni ma è come se fosse un fratello, insomma è stato tolto e la famiglia dice ce l'hanno tolto senza un perché, è stato in questo momento è fuori, è stato strappato proprio dalla famiglia secondo il codice che prevede, insomma, per le persone in stato di abbandono l'intervento dei servizi sociali, ma farà discutere questa decisione. Grazie dunque anche ad Alessandro Milan, un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, Laura Faggin in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, buona giornata, ci risentiamo tra poco con Dopo il Gazzettino del Risorgimento e con il GR.